stazione Delta Romeo della Villa Sassamichi Papel. Avevamo una piccola cosa. A chiedo, chiedo mio hermano de Pascucia, l'isola della Sardegna, adelantemi un comprensivo, per favore. Come l'isola, su che andiamo? Lui c'era a casa, 27 gradi c'era dove ero io. Ma sono sì. E allora? Che cosa è stato meglio? Cazzo, l'hanno passato, ma già legato l'ombrellone con la carrea che da pieghevole. Cazzo, ma in spiaggia, ma io. E beh, già è tempo di morire una cosa del genere, dai. No, sarebbe stato... Ah, se da martedì dice che cambia torna. Cazzo, a posto veva. Dimmi tu il suo tempo. E la sua base di rifare, la sua fa. Ma fa dire leva, che la buona rischi non le fa di più. No, dice, oggi c'è la casa, ho smontata alle 2:30, ma che mai ve la dai che avevo, E il 28 gradi, non sanno che c'era 28 gradi. Il 27 dove ero io. Da voi non c'è un punto d'ombra, da Burizzi, non c'è un punto di ombra. Ah, la venuta? Sì. Cazzo, devo ponere che pannelli alto voltaico. Solo i pannelli si vede. A me drogo, senza ricuccio. E quando sta cazzo si sa male, cazzo, mamma mia. Cazzo, non è una pianta, ma di tempo è risolta la pianta. Ma che? Cazzo, perché su gabbiotto, ma è un foro, cazzo, su gabbiotto, la discarica. Gabbiotto, infatti, la discarica, non è peggio ancora, è sicura. Purtroppo non si può avere tutto quello che vogliamo. Purtroppo così, cosa arriva? Hanno passato a Mattessi. Cazzo, per un calcio a Prima Santo, che stavo facendo il servizio a Prima Santo, mi finaccia dell'Ene. Cazzo, non vedo la pianta, così è. Aggiumiliato, un bellone alla macchina, lo sbaglio, va vivo, cazzo in campeggio, va vivo. Beh, in questi casi, è così, una baracca, un ombrellone, cazzo, ti muore l'opera, è l'unica cosa che si, anche se è un macello. Ah, non farlo, a stare al sole, a parte che non lo sopporto più il sole, insomma, prima lo sopportavo di più, ma va, E più sale peggio è, sai, sì, cazzo. tanto si è già paura, non esiste più il caldo, ma la buona non si c'è mai, è tutto come lo fa io non sopporto il caldo, io preferisco più l'inverno che il caldo, perché l'inverno magari è freddo di zappi, il ricino gli dà ragione, il ricino è troppo caldo, se è sempre sudato non dovrebbe ne manco. Anche io, l'estate, quale resta l'estate, cazzo mi viene rugoso, mi viene. E ieri ero di riposo, ho giubilato la notte, mi sono guardato a posto d'oro, fa un giro, bello, si stava bene in moto. Il morto sì, registrato, il morto sta bene, adesso si comincia a star bene. Avanti che vuoi entrare. E buonasera, da questa parte Antonio. Buonasera. Buonasera, ben ritratto. Tutto fatto ieri, era quando capito chi. Sono spento, non ci ho solo i fatti dall'apparecchio, basta. Adesso già ti ha attenuato, per cui ti sento bene. Lì c'è Emanuele pure avanti. Ciao Emanuele, ciao. C'ho solo pochi watt dell'apparecchio, sto uscendo, perché sapevo che ti davo problemi. Siamo uno attaccato all'altro, non bisogna attaccare niente, beh. Non si bisogna attaccare niente, siamo uno attaccato all'altro. Ma c'è di due fatti, arriviamo anche a Pozzugorra. Già lo so. Infatti io sto tenendo tutto spento e ho solo l'apparecchio. C'ho solo i fatti dell'apparecchio, Ah, potenza si può usare, devi fare un DX, allora va bene. Ma per sassari, cosa ne fai la potenza? Così è Emanuele. Non ne fai niente, tanto comunque, ben sentito. Se siamo tutti un'attaccata là, prima era un altri tempi, allora sì, che ognuno pompava a cannabia di più. Lascia appena, non ne vale più la pena. Non mi chiama neanche io che si dà di chissà cosa, non è vero Manuel. Ero un po' di rafforzi, dove cazzo di mille, una trattatura di 1.000 euro, da poi di morire, ma fruscia, patrulla e pa pure musica, ma non ci pensare neanche. Purtroppo, è quello che ha passato a usare quello e usa quello. Però ognuno fa quello che crede, casa sua. Non è giusto, ma cosa vuoi fare? Non è che devo uscire a far rappa e queste cose, a paccare il dai. Io ce l'ho la verità, però lo sto tenendo spento perché non mi varirà bene, se metto una tecca dall'altro, e cosa mi bongate a punire un amplificatore quando va bene? Ecco sì, Antonio, infatti non si tanto lontano uno, vabbè, capisci che è lontano, puoi attaccare magari. Ma se in 3-4 magari c'è 3-4 vicini e tu attacchi sa cosa è un macello, capito? Per cui non vale la pena, capito? Non vale la pena, però ognuno fa quello che crede e cosa vuoi fare. Tutti i dire siamo una cacca dall'altro per bisogno di sicurezza, la sono ammazzi e si è tranquillo muro. Vai Emanuele. Ognuno pensa come vuole, ognuno la pensa come ti vuole. Io perlomeno a me me ne è passata la voglia, me ne è passata la gara veramente di una balosa, ma nulla, perché non serve a nulla. Ti ripeto, prima c'era bello, sì, erano altri tempi. Parlavi, Castellone Arugu, Alghero, Stintino, Usilo, da tutti i bacchi qua vi dava, Cuccio d'Ora, ma vai a me, non vedi nessuno. Ma sono tutti voci, no? Sono tutti voci. Bisogna andare via le San Paolo se viene anche un vivo, per poter fare da. No, qualcuno ogni tanto entra. Ogni addanto però. Tu hai ragione. Oh, yeah. sono qui i discendenti, dai. L'abbiamo passato il centimbili, dai. E gli abbiamo chiacchierato, è bene pure, è puro. Allora, io già mette 10 minuti anche troppo, davvero i pari di giunti. Così è, Emanuele. Mi ricordo che quando modulavo io, cazzo, favidavo dallo manzano, senza manzanini, senza manzanini, Gio Maria, favidente, dalla mattina fino alle domani mattina. Infatti, allora la sera è tutta lì trovagliata, la sera è stracco molto, non finì l'ora a sentire Maracchi che ha veramente il circo di manzano, e fatti i suoi tutti andare a trovagliare a torre. Era bello prima, dai, prima già si divertiva. Vai, Arturo. Sì, quei tempi io me lo ricordo. Insomma, non è che era solo un canari, no. Tutti i canari andenti erano, perché allora la gente era tanta, era, quindi doveva andare forte. Stasera va pieno, pure il paese va pieno, dappertutto ce n'erano, così che i canali erano, prima erano 23 canali e non bastavano, da voi 40 non bastavano al manco, a voi 100 picci e non bastavano al manco. Più canale va via e meglio era, anche i canali erano sempre occupati, ho sfatto la barca, ho sfatto l'altro, vabbè, sono passati quei tipi, vai, vai Emanuele. Cazzo, me la metto, la morale Mari Bacchese quando modulavo, nel 14 mi sembra, che Velarissimo e Manicomio, il vecchio manicomio. E è entrato un marchiso, cazzo, mi sei sbattere di tutti i canali, ma non è, casa mascia un po'. E allora lascia fare che pure un po' di chi da manina, raccogliamo tutta la spazzatura, per cui adesso magari è diverso, la perché sono più filtrati e di meno. Però se mettono le potenze gli attentano con me, non come prima, ma un po' gli attentano lo stesso. E io allora stavo usando il 440, usavo allora, cazzo, con l'MC60, a voglia si mette in via. C'è ancora l'antenna, non l'hanno tolta gli eredi. Quella in macchina sì, c'è ancora. Ma strano che non ne hanno mai parata. C'ha tutto, c'ha tutto la moglie, però non ne ha nessuno. Il figlio non ne può dare nulla a nessuno, c'ha tutto in casa. Ma se non li accendi ti si rovina quella roba. Dice che non ne vuole dare, per cui che se la tengono, capito? Forse per ricordo, capito? Chiappa. Ma qualcuno avrebbe dovuto accenderli, modularci un po', perché sennò chissà roba da voi di un po' d'anni devi pigliare la pazzia dalla montezza, perché cominciano a rovinarsi gli apparecchi. Loro la pensano in questo modo, la pensano in questo modo, per cui bisogna accettare quello che pensano. Ognuno vedrà lui cosa, vedrà, vediamo cosa fare, capito? Noi siamo tutti sulla stessa maniera, capito? No, che arriviamo ben forti, ma chi arriva fortissimo qua, vabbè che si è attaccato, però logicamente sarà con una bella modulazione a me qua. Certo, per tutta realtà, ma poi si sentivano qua per tutto, andavano bene, cazzo, ma così si sentiva sempre male, però la maggior parte erano fortissime, belle e chiare, che era un bombo. Cazzo, ancora mi ha messo anche quella Manuele, no, che cazzo. Cazzo, tra io, da voi c'era Giampaolo, con Piazza Vera, Mario, io, da voi fino a lui mi porto la coppa, mi ne uno, mi ammetto che si chiamava lì su Manuele. Eravamo la cosa, sembra uno. Da voi fino a un attimo, fino alla radio Oasi, E chi mi viene a lavorarselo? Cancellavamo tutti i mesi, non attaccando là. Io metto qua, se c'è così, cazzo, fammi in denti, cazzo, fammi la mia lastra, non riesci a comprendere né una né l'altra. E vabbè, sono passato i tempi, va. A parte la mettiamo a chi non vende nessuno, prima te la mettiamo a chi la vende un papà, non vende nessuno, se la mettiamo lo mattino. Insomma, già la non vede, dai. Noi dovevamo, sul terzo lui aveva vendato lo 23, ti ricordi Giovanni? Io, Mario e Giovanni, anche se mi avevano una camma che non intendia di voi. Erano prima, erano sempre lui, il Zinco, Mario. Da voi di Zinco, ma fare camionisti, Mario sa far ramo con te, che sta a Ticchino, Rassende, che sta i camionisti. Che dice tu non hai pagato questo canale, posso farmi dare un muro, così che da voi invece ti siamo toppati, se ne sono andato al 23 ed era mi sempre il 23 e tuttora la maggior parte sempre il 23. Certo. Già me lo ricordo, sì, quel camionista si attaccava, lo mangiano il dito. Ma certo, e quando si arrabbia già Mario, io su qualche altro. Iniziamo qui, vabbè. So cosa è successo, per cui è tutto passato adesso, dai. Quei tempi però. Che mai. Stata fino a pochi, stata bieni, stata pieno, cazzo. Ce n'era parecchio. Poi c'erano anche, ce n'era uno era polizia stradale, ancora mi lamento, uno era finanza, da voi che non era, io dunque, non c'è gli altri, e pure di sorte eccetera, ragazzi, altrimenti di Giorgio, dice che era il dopo della polizia di Roghi, di via di Sicilia, Emanuele. Sì, già me lo ricordo anche di lui. C'era anche quello delle ferrovie, che lavorava alle ferrovie. Infatti, era pieno dappertutto, in tutte le cazzo. Era la mossa, ancora me ne ammetto, era la mossa, cazzo. Era moglie di Buru, fammi dava, Rubigliuru, la moglie cazzo mira. Cosa, quello con la motorizzazione, il direttore della motorizzazione, insomma, ce n'era uno pieno, era pieno di sassi, là. Sì, prima sì, cazzo prima, dall'una a quarta era tutto bene, il canale, non sapendo di dove andare. Accidenti, ma dire un po' sette ore. Ora si dava al mare, io gli ha fatto il bagno. Sono cuparato sotto. Ma non sai che era pieno di gente. Lo assassare giù, dappertutto, perché le temperature sono salite abbastanza forte, per cui come se all'inizio lo state, cazzo, mi immaginare, cazzo, caldo, per cui la gente se ne va, si rinfresca le chiappe, vero Manuè? Sono sceso anche io ieri, se la vengo a guarda. Alla rotonda, per Sardù, cazzo erano tutti cazzi a culo, il piparo. Però si sta un bel bene. Alla commissaria, per cui, tempo si vuole, adesso è caldo, comincia, per cui la gente se ne va a rinfrescarsi, tutto lì. Si sta un bel bene, si sta a me lì. Caspita, è bello, eh. Ma guarda, io sinceramente non sono mai andato alla rotonda a fare il bagno a tu. Guarda, io se vado dalle zone di Grimano, Fiume Santo, o se no vado su Percoso, Santa Maria la Palma. Ma guarda, io ci sono andato, ci sta bene, ci sono anche mesi dove il mare è pulito, è bellissimo proprio, e si sta da Dio, ti posso dire. Sì, ma lo so, ma anche a Platamona, al Tartopeta, anche lì adesso è pulita la spiaggia, anche lì sono passato, la spiaggia è pulita. Anche lì volendo si sta bene, però sinceramente abituato ad andare da quelle zone lì, mi trovo meglio lì, dai, mi faccio mezz'ora di macchina, però è tutta un'altra cosa, dai. Non stai uno in alto all'altro. Sì, a Placcia Bola sta cominciando a essere un punto strano, perché troppi sono, uno attaccato all'altro, grazie alla Mola, è vero. Oh, io ho fatto sempre campeggio lì anche il soffittine, e per cui si stava bene allora, perché la gente era di meno, per cui si stava veramente bene. Allora c'era il canguro bianco anche il soffittine, grazie, non so se te lo ricordi. E poi mi sono trasferito a stesso pettine, che avevo fatto la cabina, e avevo la cabina lì, e lì stavo bene veramente, perché dopo un po' che mi si era infasciato tutto. Sì, già lo so, già, ma io ce l'avevamo anche su pettine, dove c'era il Bar Gammoni, dove c'era il Bar Gammoni. E noi ce l'avevamo lì, vicino Veda Dotto, Le Busa, Veda Lamassone, Veda Gosso, Centoro, tutta la crema era nei libri. Ma ogni tanto, prima di unirmi, cazzo in greppa, se mi davo di meno, la roccia ci andava a attaccare un vino per fare un fuoco, a roccia così la roccia di meno, si può immaginare, ma a che tempi, allora potevi fare, allora invece si può fare più niente. Era bello prima, insomma, io me lo ricordo, cazzo fa più 10 anni, ma me lo ricordo bene, sì, prima era così veramente. Una volta avevo fatto con Mario una buffalatura, cazzo, io campeggiavo allora io, però Mario parava ogni tanto con la moto, allora siamo decisi di fare una buffalatura tra tutti i cibi di Sassari, Caburi a fare a mangiare B, tutto gratis, cazzo. Io voglio solo parlare, burlare, e Mario che di venire gente di CB Farelli, ai settembre a fare proprio del mangiare e noi si ridendo, ci state arrocciando qua. Allora per ancora anche il compare Capino era passero attaccato a me il campiglio, cazzo, c'è più del submittine. Passo solitario. E allora, cazzo, ogni mangiare slagina, cazzo, allora il beccavore scia nella luce, poi cazzo, andavo un bocciolo di vino a Porto Dorre, e andavo una pagina di becciu di Valdiani. Ma cosa che appena ha fatto l'altro, Italo, che era a fianco? Ah, già mi ricordo Italo, mi sa che vuoi rifare giù, lui abitava un po' più avanti di Passero. Era la cantonera, io ero la cantonera, e ancora la cantonera, lui abitava lì, cazzo. Ah, la cantonera, era vicino a, dopo il mulino era Gianmarì. Nella cantoniera ragazza, la forava nella cantoniera, la forava, capito? Ah, boh, non lo so se lavorava la cantoniera. Infatti, cazzo. Assolutamente buio. E allora era la gara di conoscersi tutti i CB, cazzo, mentre entrava uno a prima volta, subito lui conosci, e così abbiamo fatto sempre, vai. E prima si trovava, sì, anche lì al quadrato, ci davamo gli appuntamenti, ci trovavamo lì, si beveva una cosa. Prima sì, prima era così. Avevo 22 anni io quando ho preso il primo apparecchio, che avevo venduto uno 23 canali, il figliolo di Mus, quello di Amanno, quello che vendeva strumento musicale, che ha 23 canali portatile, e uscì al ghisci, da voi 6 canali, da voi 12 canali, fatti tutti, allora abbiamo 22 anni. Da malacchina all'acqua si sia, vanto. Perché allora si doveva anche provare per vedere chi era il migliore. lui funzionava più bene, c'è più forti, come tirano tennis, se passava dalla Grand Prix, poi alla Mantova, all'antenna più manna, e così era. Ah, che era più forte, altrove era prima, ah, che era più forte. E già lo so già. E da voi... La voce cominciava a fare uno le piazze nel muro di chi l'ha fatto. Ehi, sai, no, si c'è se le cose noi per carità, vabbè, anche sempre. Ma siamo passati adesso, è tutto. Oh, prima da Ferrabani addirittura, cazzo. Prima da Ferrabani, cazzo. A chi aveva voce là, se la tu rientrava, lui ha parlato io fra sé, ma la massa. Salva, sono due figlio. Dammi la mente, sì. Dammi le cose. Ma era tutto già sarei la cucina. Bello, senti, vai. A mangiare non ci faremo brutti. Diciamo che sono arrivati a rimane pure. Tutti 40 canali a disposizione. Arrivati pure a rimane un po' di niente, ma ci fa un baracchino. Un attimo Manuel, dai, rientro subito, tanto riprendi tu. No Manuel, come di gente è arrivata alle mani senza motivo. Che si credeva superiore agli altri, lui c'aveva la roba più superiore dell'altro, quello c'aveva questo, l'altro c'aveva... la gente, ci parlavi, conoscevi, però la gente che non faceva neanche a scherzare. Lo so, ma la prima cosa, sfidenti e cosa, c'è senza motivo pure, cioè, veramente, mi hanno raccontato un po' di anni fa, già le sentivo certe storie pure, perché mio padre ce l'ha, già lo sa che mamma ce l'aveva. Cioè, a far rendersi cristiani, io vengo così, io così a parolacce, ma manco le bestie, guarda. Ma parlate una baracchina, ma stare così non ne avrei neanche messo. Pure io sentivo queste discussioni molti anni fa, molti anni fa. E poi il cavolo ti vuole fare un voce quando non conosci neanche il personaggio. Secondo chi è? Non ti fate manco parlare dalla macchina, secondo chi è? Cioè no, proprio non ti dà scampo. Cioè tu non conosci le persone, ti vuole, io qua, io là. Ma calmati, ma respira un po'. Qualcosa si vende. Purtroppo ce n'erano tante di quella gente lì che si faceva vedere, poi quando li trovavi di persona erano anche bassoni. Ma fa cosa da voi, cioè, ma fa cosa? Ma c'è cioè, tutte, cioè, per la cosa di dire che tu sei forte, cioè, ma vai, ma no, guarda, no, non può esistere, veramente, non può esistere, no, non si può. Non fa parlare, a mettere io, sinceramente, non... Per come facevano questi qui, non li avrei messi male. Questi rompevano le balle dalla mattina alla sera, ma anche i camionisti erano noi che rompevano il coglione. Oh, venivano gli attacchi di nervoso, ma io li ho sentiti di tutti i colori, proprio a livelli. Poi ti faccio la faccia, pumba, e quello e quell'altro. Ma tu come ti permetti di dire a un'altra persona così? Cioè, se non ti ha risposto male, se ecco, magari è uno scherzo e cosa, ma perché gli devi rispondere male? Per farti vedere che sei più forte, magari mi diamo voluto due tazzi da negozi, ma lascia perdere, cioè, che poi, cioè, vai, che secondo me c'è per di troncare orsi, ma buffonendi sì. Non è fare quelle cose, perché c'è gente calma, che te lo dice con la calma, poi quando da ciappa di piglia, si pura iata di cude. E' bello, guarda, certo. Lavorato, prossima settimana. Oh, ma non stai facendo altro? No. Vabbè, provate a chiamare quel sito là, no? Sulle navi, che fanno quel tragitto con Olbia Corsica, o con Torrese Corsica. Mi sono dimenticato, via. Eppure stanno cercando anche in Germania, sinceramente. Non vuole andare nessuno. Da come vuoi andare? Ma curi andare a Baia Sardinia o caccia o Manuele, caccia. Da come hai bigliato, ma fa sei mesi a Vitaluggio e a Bagnà. Euro, 1200 euro con gli stipendi. A Baia Sardinia. E io? Già è buono, se Vitaluggio già è buono. E infatti, me lo stava dicendo ieri, così che ecco io per partire. Sì, già lo so chi è che deve andare, già lo so. Beh, visto. Hai visto, c'è la macchina nuova, nuova, usata, però è bella, E la C3, già l'ho visto. Ma io sono contentissimo, la verità, le auguro ogni bene qua, gli auguro, perché cioè, bisogna anche darci da va, bisogna, perché purtroppo io non che travaglio non venne. E io prima vuoi a che cosa ci vuole, vai. E bisogna sempre anche chiedere, anche, capito? E prima poi a che cosa ci vuole, gli esci, vai. Così che, ah, va, Manuele, a te non se lo si riesce dato ancora, no? Sì, a me va poco, si vede da lì, vai torna al campeggio, questa estate, grazie se lo manda a far culo. Vabbè, bisogna sperare sempre, vai. Va, purtroppo è così, non è che si può farci a fare niente, via, per carità. Non si rasura, no? No, ma sia perché è troppo casino, i ragazzi fanno casino, devi controllare, cazzo, cazzo, con le bombolette, con l'accendino si mettono a bruciare i tavolini del campeggio, Giomari, fanno fuori sì. Cazzo, la mobilità da Bosi, se torna a venire qua, ti giriamo la testa alla rovescio, perché venivano dall'altro campeggio, capito? Perché ci vogliono controlli severi, ci vogliono lì, però non voglio la gente a mettere queste persone, allora fanno quello che vogliono, capito? E non è giusto, e non è giusto, per carità. Tira niente, si mette un camarada, sono tutti girati di gabola ieri oggi. Ah, sono tutti scoppiati, queste ragazze qua sono tutte scoppiate, una ragazza di 17 anni, 16 anni, 20 anni, tutti quanti, tutti i gatti sciroccati. Un bel viso di chi si è, un bel, chi si vuole miliardi impiccati. Sono ragazzi, cazzo, invece di divertirsi, cazzo, andranno a far casino. Ma vai a divertirti, lascia perdere queste cose qua. Anche cosa fanno a Roma sempre, tutti i muri, le cose, a freggiare le sfatte, ma sai a tesoro in sai. Tutti ma che c'ha di so, e poi no, e voleva essere così, tutti i muri ma che c'ha da Mamoretti, li treni. Ma c'è che tu, ora, è tutta malata, no? Tutto malato di gabbo, vai a tu. A tu, vai. A tu, Riccardo, malato. Tu bagno ero. E cazzo, pensavo che sentavo un viaggio, a tu. Cosa, stavo facendo altro. Ah. Via, mamma mia. Ah, già è bello lì, e cosa vuoi fare, no? Che no, che... Travaglio un po' che nuda. A ceramità sono buone, ma non a darti travaglio, no? Per carità. E poi quando viene a farli, poi sembra che non ti vogliono sentire certi personaggi. Tu, non sai dove puoi andare, non ho fatto il servizio io quest'estate. Vai lì, al Tortuga, però devi andare direttamente lì, perché lì stanno facendo già la stagione. E non trovano personale. Io ti ho detto tutto. Carichi sulla tortura. Il Tortuga, alla via Vignola. Ah, capito. lì stanno cercando personale, non riescono a trovare personale, sia lavapiatti, aiutante cuoco, di tutto. Ciappa. Ma cos'è, vita alloggio? Allora, ti danno a mangiare, c'è il ristorante, c'è la cosa della pizzeria, c'è tutto, gelateria, non manca nulla, alimentari. Ciappa. Va, vediamo, a te, no, che, perché se non mi chiamano spesso me ne vado lì. Ma devi andare lì direttamente, devi andare lì, allora, c'è, intanto c'è il box informazione, c'è la sbarra, chi li sta cercando lavoro, gli dici. A Vignola, se non mi ricordo dove, porca miseria. Cazzo, Vignola è fa la sala per Castel Saldo. Se mi fa che un gabbo, no, magari mi sono pure un passato me. Cioè allora, visto la strada da Luvagno, Luvagno lo sai chi è? Sì. Allora fa la strada per Luvagno, poi ci sono i cartelli per Santa Teresa, Vignola, non puoi sbagliare, è sempre dritta. E te lo trovi davanti il campeggio. Capo, lì stanno cercando personale. Ma buona la paga al mese, sì? Non lo so, io facevo servizio di guardiania lì, no? Non ci lavoravo io lì. Già, va bene. Io facevo servizio di guardia lì. Io entravo alle 9 di sera fino alle 4 del mattino. Poi cambio turno. E adesso devo risolvere una cosa, appena che risolvo una cosa, tanto all'altro mese vediamo un po' di dare questo esame, vediamo, devo risolvere quel problema, poi prenderò una macchinetta e via. E la paziente ci vuole, e se no puoi andare in pullman, ti porta direttamente lì col pullman. Vai, ne approfitto, Maria, vai. Ne approfitto, chiudo, buon proseguimento. Saluto Riccardo, ci sentiamo. Ciao, grazie a tu. Mi prendi, io chiudo, vai. A domani, se coincide. A domani, ci sentiamo. Alle prossime, ce la riascoltiamo, vai, Antu. Domani ci sentiamo alle prossime. Capito, Antu, bisogna cercare. Questo adesso stanno facendo le stagioni, quindi devi muoverti adesso, non dopo. Capo, ma a capo non vedi niente, non ribiate travagliando. Cos'è, Antu? E molta gente non gli piace uscire a lavorare. Non gli piace, e allora grazie se calcare bucate se non gli piace. Ma poi io sono sempre andato a travagliare, quando mi hanno chiamato. Ma tu devi avessi dovuto lì a travagliare, cazzo non gli piace. Uia, per carità. Hai fatto bene, ci siamo. E mi oggi sono andato a Platamona, sono andato, che bello. E cavolo, l'altro giorno ci sono uscito per Santa Maria Coghinas, lo sai dove? Sì, già lo so, guarda. Sono uscito lì con la moto. E io sono andato lì, l'ho ritirata la moto, l'ho portata alla Fais, alla piaggia lì, via Giorgio Asprune. Ha controllato tutto, ha cambiato i rulli, erano i rulli che erano di cazzo grossomati, blu, e non ce l'aveva proprio ripresa. Ah vai, è un bonbon. No, mi piace vita vecchia. E cosa? Ice. No, via Giorgio Spruni, per andare dove c'è calcio e pesca. Cosa si intende? Via Civita Vecchia, c'è a Franco si intende. Via Giorgio Spruni, e per andare dove c'è caccia e pesca, dopo caccia e pesca c'è un viotto. Ma più bene di me, tu non lo puoi sapere più bene di me. Se tu stai dicendo Franco Paes, la Biagio, quello è via Civita Vecchia, si entra da Inchivi, da... E poi non è via Giorgia Spruni, è via il pezzo che c'è là, in via Tidio del Filo. Devi girare ed entri Inchivi, dentro quel tunnel, perché da appena più là c'è l'autofficina di San Eligio. A me andà a dirlo. E non mi piace già scusare, cos'è? No, da lì inizia via Tiglio dei Fini, quella B. via, per Giorgia Sproni dove c'è il carcere, dall'incrocio che c'è in Viale Dante, vai un pochettino a quello via Tiglio del Fino, non lo dia a me che io riconosco di lì. E va bene, dici, più o meno si lì, dai, io ti ho detto via Giorgia Sproni, però proprio il punto. Ma te lo so con dei sardi, io li conosco tutti, io ho lavorato in quella zona, io conosco tutti conosco, e lui conosce anche a me. Sì, perché frequentava la Terozzo, e niente, mi ha cambiato i rulli e tutto quanto, cazzo, 40 euro solo di rulli. Quanto ti ha fatto pagare in tutto? 80, 40 euro di rulli e 40 euro di manodopera. Era stato onestissimo. Ah, la giornata è stata bella, perché se la portavo via a Sorso, cazzo di buca che la regavo, la moto, mi segnava la moto, ma va a far culo, vai. Cosa facevo? Cosa faceva chi ciumacco? Ogni giorno, ogni volta che le portavo la moto, me la mi si grava un segno, mi faccio un segno, me la graffiava, perché non c'è spazio, no? Cazzo, l'hai fatto la vada la bella là, ma va a far culo. Ma veramente. E da voi zuccava, ma hai detto che zocca un vecchio. È un bel caro, è caro. Si va a sbagliare, di grazie si rima, se ne va a sbagliare. Cazzo, no, un giorno l'avevo portata, perché io avevo gli specchi, le frecce con gli specchietti. E gli specchietti li ho cambiati perché erano tutti rotti, erano vibravano perché erano spaccati. E li ho cambiati gli specchietti, ho messo quelli senza frecce e mi ha messo sia le frecce sotto e gli specchietti. Cazzo, mi hai pagato quasi 120 euro. Non mi hanno mandato adesso, per carità, me l'hanno detto tutti me l'hanno detto. Io poco e niente, da che di chi mi fido io, da chi porto la moto in Viale San Francesco, boh, se proprio è, però so che me la fa bene, so che lavora bene e me la fa bene senza far cazzate. Qualche volta che gliel'ho data, qualche volta, se no che non avevi gana, se no la moto me la faccio io, no, non tocca né nuda a nessuno. Sì, da Bastiano è portata, da Bastiano, dove c'è attacca, vicino alla scuola guida. Ehi, io do solo a lui la do, perché se no la moto mia non la tocca a nessuno, me la posso io. Lo so, adesso le scute le facevo una volta, ce le facevamo noi, cazzo i rulli, compravamo i rulli, se li chiamavamo i rulli, ma va, mi cazzo me la moda a fare la dose. Io già c'ho il magazzino, tutto, non è quello il problema, no, io no. Io no, certe cose non le faccio toccare da nessuno, c'è un ragazzo che viene qua, me la fa davanti ai miei occhi e so che il motore me l'ha fatto bene. Beh, senti, sono una persona affidabile, ma io la mia non la voglio toccare, l'ho portata lì alla piaggia, so che è bravo. Ti ripeto, la moto va benissimo, sono andata a Porto Torres, ho fatto un giro lì e andava di lusso. Sì, però anche la mia va benissimo, gli ho cambiato la cinghia da poco. No, la cinghia ha detto che è già la buona, non va cambiata. Guardate i parametri di olio, motore, miscelatore, controllato tutto e andava. Adesso appena è inverno, la faccio rinfrescare tutto, faccio vedere c'è i circhi, torna, adesso c'è già 20 anni e quindi il colore se l'ha mangiato nei circhi e quindi se la faccio, la faccio bianca però. Oh, la cinghia anche se era buona l'ho cambiata, no. L'ho tolta, perché siamo di ghetto, ne capito? L'ho fatto un'estate e l'ho tolta, siccome me la faccio io, l'ho presa originale, l'ho presa rinforzata, ho voluto quella rinforzata, l'ho pagata a 20 euro e via. No. E vabbè, no, comunque sei a posto, adesso per tutta l'estate uso la moto, L'anno scorso cattedrino di città Santa Teresa, l'anno scorso l'ho usata lo stesso, ho giovato chilometri. Non bisogna fare la monta, ti avessi tenuto bene il motore e non gli ho cambiato te la. Ah, lui è a posto, ho guardato a posto. Certo. E una volta all'anno se fai troppi chilometri vuole cambiato. Sì, ma già l'ho detto, guardavo, ho detto che è a posto, sia olio, sia cose dell'olio dei frini. Sì, certo. Io sono godichissimi, cioè rompivi, cioè che me la faccio io, quindi non voglio rotture di balle, il prossimo anno li cambio i rulli, il prossimo anno li rimetto, nuovi. Io sono godichissimi, un po' fissatini, anche se non si è usurato io di rampo, no, non me la fotti nulla, perché io a me non mi devo lasciare a piedi la moto. Punto, sono fissato così. Ho cambiato le pastiglie l'altro giorno, perché, avanti ieri, perché ha avuto problemi. Poi ha cominciato a cambia. Si vuole già invadersi, perché sennò il disco te lo mangia. No, vabbè, non freni di cudare un muro. Sì, già vedi se li danarsi. Chi sui danarsi proprio andando in ora a mare. Vabbè, allora, il peccato per te non si è salito. No, devi continuare tutte e due. Io, una mia che faccio, fino al 130, e quindi li uso tutti e due, sia davanti che dietro, per avventare. La mia già cammina. Già cammina Murughisa a Futidine, che vuole fermata la moto. Fidati di quello che ti sto dicendo io, che con la moto vuole fermata. Vabbè, ma 150 io... 150 e anche tu, io lo stesso ne ho avuto scritte Maserati, Vespe, lo so, che già camminano, però sono sempre 50, non puoi sedere in due perché sono scomode. La capisci che, cioè, come si dice, Manuele, a frenare la BV, perché soprattutto in strada cammina un bel, no, non è così, no, cioè in certi punti quando arrivi a 100 ti vogliono vedere frenare, quindi è meglio che i freni siano non efficienti, no, di più. Beh, i freni devono essere buoni, se arriva con la velocità è normale che i freni devono essere buoni, cazzo, poi bevi in terra. Così ti ci baro un rombo, perché purtroppo la moto è maggiorata e quando prende strada cammina. Bisogna essere così. Vabbè, altro dai, ne approfitto che per attaccare qua un po' di televisione, che domani mi dico un bisogno di sentimento dopo. E ok, ci sentiamo, Manuele. Ciao a tu. Ciao. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora Ora, ora, 1, 2, 3, prova. Ora, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, prova.